Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Come ogni domenica, un saluto affettuoso a tutti voi cari ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio e anche dal nostro regista Eddie, che ci sta aiutando a fare la trasmissione, vero? Certamente. Ecco. Ciao Antonio, hai caldo? Ciao, piuttosto, è un periodo così, un anticipo d'estate, ma speriamo bene. Va bene. Allora diamo intanto un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Certo, anche a loro, perché tutti in tutto facciamo tutti, no? Esattamente, ecco. Esattamente. Allora stasera avremo un ospite virtuale. Un ospite che ormai i nostri ascoltatori conosceranno bene, che è la signora Franca Turchetto. Però prima di chiamare al telefono la signora Turchetto, ci ascoltiamo la prima canzone in programma, che è, visto che si parlerà di Venezia, è una canzone veneziana. Vecchia Venezia, cantata dal gruppo dei Gondolieri. Eccoci di nuovo in studio e fra qualche istante sentiremo la nostra Franca. Franca? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. E bentornata. Grazie a voi. Grazie a te, che sei sempre disponibile. Non ho niente da farmi. Sono contraria degli altri che ho sempre da farmi. Sempre massa. Buonasera a tutti. Buonasera. Stasera di che cosa ci parlerai, Franca? Ti parlo di una roba strana, che cioè non è tanto strana perché è la storia, però si sente poco parlare come storia. Ho capito. È un personaggio fatto di Piera. Ah sì? Ma Piera Bona, di quel che dura tanti secoli. Ah. parlerò un po' di cronistoria del Ponte del Rialto. Ponte del Rialto? Sì, ecco. Allora, andiamo avanti? Sì, sì. Allora. È tutto tuo il microfono. Tutto mio. Sì, sì, allora, sì. Stiamo a vedere il Ponte del Rialto. Insomma, da sempre, sta zona del Rialto è stata centro della vita commerciale di Venezia, dal momento che ha cominciato, diremo, a crescere, perché prima c'era tutto acqua anche là. I primi abitanti, scampai da terraferma minacciata da invasori, e si sernisse proprio qua, perché sta zona era più solida, più alta e più sicura dai alluvioni, dai, sì, come che succede adesso, però che a volte non si usava però acqua alta. Ah no, cosa si usava? Niente, alluvione. Alluvione. Perché, no, alluvione, perché essendo una zona che non era ancora protetta, come che se adesso è laguna che ha i porti, che se, insomma era tutto aperto, perciò quando che c'era una burrascata che si scaricava su tutta l'acqua dei fiumi, perché non era come adesso, pensate cosa che succedeva? Mamma mia. Ecco, ora non che c'era quarta, che a volte adesso è così. Adesso, allora c'erano solo le alluvioni. Ecco, che a volte le alluvioni, pensate, parliamo prima del 1800-900. Tanti secoli fa. Tanti secoli fa, quando che comincia a nascere Venezia. Dunque, sto luogo, diremo, veniva chiamato Rio Altus. Con la S finale. In latino? In latino, certo. I veneziani di latini. Certo. Nome che durerà fin dopo l'anno 1000, perciò io avrò cominciato sul 750-800, insomma. Dopo l'anno 1000? Durerà il nome Rio Altus. Sì, sì, sì, sì. In antico, invece, è il nome Venetia, non Venezia, Venetia. Venetia. Comprendeva tutto il territorio dell'estuario, che si estendeva da Grado fino a Cavarsere. Invece, sto piccolo grumo di isole, e si chiamava Rivo Altum. È così, sempre latino. Se avevamo civisa. Declinazioni latine. Ecco, o Rialto. Ecco. Sull'origine di sta denominazione, che c'è diversi pareri. Chi ha fa saltare fuori da Rivo Alto, Rivo Fondo, perché ste isole, chiamai rialtine, e si spezzava solo un canale più largo, o più semplicemente da rialto, rialzo, elevazione del terreno per essere ste isolette più alte d'estaltre. Perché io andavo sempre in cerca dove che c'era un tocco di isoletta, di secca, che veniva a fior d'acqua, e io ricominciavo a imbonirla con coegni, con robe, finché gli assolidificava. Ho capito. Ecco. Guarda che ingegnosi chi sono. Ecco. Che se però, un'altra versione, chi che dice che in antico un piccolo fiume chiama Prealtum, con la M, ramo dell'Adese o del Bacchiglion, el veniva soso attraverso i coliuganei, sbocciando nella Brenta. E insieme si incanava tutti do tra mezzo isole della laguna. Vedi che andiamo sì, questa è la storia. D'altra parte. E cioè, difatti, i fiumi scarica ancora in laguna. Sì. Ecco. Allora, a testimoniare, adesso andiamo più avanti, a testimoniare l'importanza commerciale di sta zona, oltre ai cebri fondi, che saria magazzini, e dopo che ne parleremo, sì. C'è la tipologia di sti palazzi che si gasontà con l'andare di anni lungo il canale. Perché a base di sti palazzi a peo di acqua, se infatti adibia a un andrum, che serve a depositare tutti i generi di mercanzie di che a volta. Chissà quanto umidi erano. Ciò, perché qua l'acqua cresceva. Allora a sto punto mi metto un attimo a descrivere, questa è una specie di, non è una poesia, è una descrizione di quello che succedeva dentro che a piccola zona, in queste isolette sparpagnate. Allora, Venezia, franca del mondo corona, donna de mar, de pian e de monte, dentro si alberga de ogni condizione, gente tedesca, italici e lombardi, e se il bel dì non tardi, francesi, borgognoni, tanti inglesi, ungari, schiavi de tanti paesi, tartari, mori, albanesi e turchi, che viene con avi a Burci a far sua vita e mai se ne parte. E italiani da ogni region, perché chi vuol danari qua convien cal passa, perché se fonte de tanto tesoro, de tanto argento e oro, se trova qua per chi el vien, par cal venia fora de vena. Però con gran letizia podemo star nel mondo a dire il vero. Non che se carestia de pomo e pero, anzi i vien carghi a Burci, a onda sì che parchi si affonda. E sul ponte i se passai adesso contarve voggio de a condizion del navigar che fa e gaere, co gran trionfo torni i capitani, tal che in Venezia par che se ritorna al campanon che suona per l'allegressa che fa tutta sta gente. E a gioventù perché avvenia de Franza, da Catalogna o de strani paesi, tanto se diversi e foggia di so vestiti, su per e barche a di alto e in loggia ti vedi star coi sovesti de sea che tanto ben seghe modea, che parnati nell'empireo regno e il povero non se conosce dal maggior. Tutti me par signori, stati de terra o città o castei. Ecco. Franca, cosa vuol dire venire de Franza? Francia. Dalla Francia. Francia. E in quanto qua che lo nominò i schiavi, non era schiavi, era gente che veniva dalla Schiavonia. Slavi, quindi. Per cosa noi altri che diciamo ciao, tanti crei, perché appunto sarebbe servo vostro, no? Però che se arriva di Schiavonia a Venezia, che era proprio nome di Schiavoni, perché io riveniva a questo barco cariche di carname selvatico. Ah. Gli veniva qua a Castradina con roba. Sì. Ecco, ti ha capito. Ho capito. E ora tanti credi che sia Schiavoni perché gli schiavi invece è una falsità enorme. Schiavoni perché veniva dalla Schiavonia. E che mettiamo in chiaro sta storia. Eh sì. Ma io non mi sono mai posta. Non mi sono mai posta. Come mai si chiamano degli schiavoni? Poniti adesso. Allora venimo e ora. All'origine di questo benedetto ponte. Allora, par che sia sta un bolognese, un certo Nicolò Barattieri Sterantoni, la stessa persona che ha fatto Tirasuso e metterle in pie e do corone di granito che è la piazzetta di San Marco. Che è la piazzetta di San Marco e do corone, no? Ecco, qui quando chi ha sbarcato, gli ha messo subito su perché non c'erano né strumenti né metodi e gli ha sai buttare per terra la piazzetta. Pensa per tirarle su perché deve essere pesante. E ora sto robo qua, sto cavolo, io le deve tirare su con corda e acqua. Penso di sì perché deve essere stato pesante. Tipo l'obelisco. Che poi dice anche che ne sia stata terza e che sia cascata in acqua nel travaso di Spontalla. E non l'hanno più trovata? No, non l'hanno più trovata perché dopo, siccome che arriva era più curta di adesso, era in bonio, butta a piede e si è coperta insomma. No, ho capito. No? Però sotto è che ne sia un'altra. Un'altra colonna, mezzo un po'. Allora torniamo a sto Barattieri. Sì, sto bolognese. Sì, sto bolognese. E stesso di Domenico Emilia, dunque, il costruttore del primo ponte sarebbe stato proprio io. E stesso che ha le sue corone, sì, che ha fatto anche il ponte. Sì. E ora siamo presso poco l'anno 1180, ti vedi che storia torna in drio. Sì. Che già se pensava alla costruzione di un ponte per smaltire tutto quel traffico che ho detto adesso, punto d'incontro dei mercanti e banchieri e armadori marinieri e per facilitare il fastidio del traghetto su barca da riva a riva, perché doveva andare qua da questa riva, sì. E passava il traghetto con le barche. Insomma che c'era tanto movimento, a un certo punto ha detto le barche cosa stiamo a fare sul 69, chissà che decidemmo di fare sto ponte. Cioè passava su barca da riva del ferro a quella del carbon e d'oliva, che ancora adesso si chiama questo nome. Si chiama riva del ferro, riva del carbon. Una riva del ferro perché scaricava ferro, sì. E quella del carbon perché che scaricavano carbone. Dopo che quella dell'olio e quella del vino. Ah, dell'olio e quella del vino, mamma mia. Quante rive che avevo. Sì. Allora ha avuto l'idea sto bolognese dei garli invece, una contro st'altra, ste barche, sì. Le attaccai sempre, se le attaccai quei cordi, mettendo per di sopra un tavolato di legno come vediamo adesso al ponte votivo del Redentore, perché anche quello si è fatto sopra barche. Uh-huh. No, degno come quello. Ponte di barche, sì. Si chiamava sto ponte del Quartarolo. Ponte del Quartarolo. Quartarolo, dal nome di un piccolo soldo che si spendeva per attraversarlo. Perché ciò gli pagava il pedaggio. Il pedaggio. Allora, c'era una moneta che si chiamava Quartarolo. Sì, una moneta Quartarolo. Cioè, no, è moneta, sì, il ponte, però è una piccola parte di sto soldo. Sì, sì. Ecco, che si spendeva. Oppure della moneta, perché nelle vicinanze esisteva già la prima zecca della Repubblica e parliamo dell'8840-880 e mi ripedico punto di domanda, perché è data incerta. Ah, beh, vabbè. Ste barche si chiamava sceole. Sceole. O suole, perché aveva sfondo piatto. E che somigliava ai suoi dei scarpe. Ma vedi che ogni parola ha una derivazione, ha un significato. Un significato profondo. Ed era fondo piatto. Sì. Tipo i pantane. Ecco, i pantane. Perciò nel 1264 e 65 sto ponte è stato rifatto. Dopo sto passaggio di barche, gli ha rifatto il ponte legno, sì, più moderno. E sole e parafitte. Perciò io dico fatto, fa conto, da riva a riva, io di non ha messo e parafitte sotto acqua, perché è già da degno. Però sì, è sempre sostenuto su da un sistema, sempre di parafitte, ma per tenere sul ponte, no? Perché d'oliva avesse da sostenere il peso. Non so se me lo spiega. E poi fitte cominciava, diremo, e veniva da riva, riva ed era fa conto basse 2 metri, dopo un paio di metri cresceva ed era più alte, finché dopo gli dà la forma dell'arco del ponte, però il suolo non era fatto di palafitte come chiese e tutto il resto. E era già, diremmo, impiantato sul legno, ma non col suolo di palafitte. Ho capito. Sì, sì. Ma anche stavolta, cioè più moderno, sopra e parafitte, ma è su del ponte, non su. Sì, sì, non della riva, ma del ponte riva, proprio. Ecco. Sì, sì. Tutto degno, ma anche stavolta non va bene. Non va bene. Questo ponte no, no. Perché nel 14 e 15 di giugno, dei congiurati, dopo un fallimento del colpo di Stato, perché avevano che tentato di buttare sul doge, che a volte faceva presto. Anche sì. Allora c'erano i golpe. Insorto da una manada dei gaggioffi, capitanata da Bagliamonte e Tiepolo, e si è scontrato con le truppe fedeli del doge, perché che si sta una spiada. Ah. Se non il doge, come si chiamasse, fedeli del doge, che ha detto. E il ga brusà, spacca il ponte in 2 mesi. Questo era legno, io ho fatto presto, insomma, così. Sì, sì. E non si è più passati di quando i primi dei si scontrare. Però è ancora ricostruito. Sì. Allora aspetta un attimo, dimmi, prima di ricostruirlo. Sì, che ascoltiamo una canzone. Sì, se mi tocchi anni d'acqua. Va bene. Bene. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Milva e da il compianto Enzo Iannacci. È una canzone allegra, così volevo farvela ascoltare, almeno ci tiene un po' di... E si chiama Il Dritto. Tac. Questo cos'è? Cioè, sì, questi qui sono sassofoni che ho portato direttamente da casa. E cosa devo fare col sassofono? Devi suonare il sassofono. Devo suonare il sassofono? Non far finta che sono 4 mesi che proviamo questa roba qua. Ma non l'ho mai suonato il sassofono? Sì, sì, sì. Allora. Milva eseguirà gentile richiesta, come dirà poi dopo. Ah, gentile richiesta. Aspetta. Con obbligo di sassofono canta e suona. Prego. Allora, a gentile richiesta, vai. Il dritto. Sì. Maestro. Nella casa popolare al tre. Festa. Passo. Vi rinfresco come la cavare. Festa e pasta. gira, gira, gira, il giradischi e va. Solo, appoggiato in fondo al muro sta, zitto sta. Petardi di cartone là, nubi, lampi, e la casa sembra un varietà, nubi e lampi, suda, suda, ma la fronte non s'asciuga mai, chi è che suda? No. Gira, gira, gira, il giradischi e va, ma ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Franca, alla quale deleghiamo questa descrizione affascinante. Allora Franca, ti è piaciuto il dritto? Certo, i geladricci tutti rompono. Vabbè, dai. Vabbè, allora i gaspacasto punti in dotochi. Subito li costruio, perché faceva presto, se ne aspettava tanto. Sì. Sempre però degno. E il gadurà in vita 130 anni. Là, mica poco, eh? Punto. Perché, no, ti sa cosa che è? Io aveva materiale di prima qualità. Eh beh, che io ne aveva. Non si barava sulle qualità del materiale. Legno, a parte che ti dirò una roba, che a volta il canale non era trafega come adesso. L'acqua era tranquilla, che c'era i barchetti, non c'era squanquassi, non c'era anche onde. Più pulita, forse. Beh, cioè, quello non so, perché, no, ma ad ogni modo, cioè, è tutto squanquasso di legno, qualche onde che è adesso, sarebbe andato tutto a fondo. Il moto ondoso. Perciò ti capisco. Allora, dopo 130 anni, perché nel 1444, tra i tanti personaggi che da ogni parte della terra si è innamorato come adesso di Venezia, chi se che arriva? È la Marchesa di Ferrara. Ed era figlia di Alfonso IV di Aragona, a quell'epoca che quantità di ospiti che aveva. No, di tutto rispetto. Morti e fusi. Sì. Allora, cosa è che succede? Che per guardare mezzo il bellissimo e fiabesco corteo acque, abbiamo che pensare che a volte siamo già nel 1500 quasi. Allora, e gondole noi zera fatte come chiese adesso, che già non fa più più, però e zera vestire la festa anche qui. Ai, e intanto okay. Zera, perché zera più gondole di casata, zera i dicchi che aveva... Gondole di parada e orega viva fa conto dove che adesso che c'è il ferro di agondo, magari che a volte che c'era un riso che io chiamava il delfino, sì. E insomma che ne c'era per parte poi dopo ho riso personalizzato, sì. Spendeva un sacco di schei, io vestiva, io faceva tutto come se la coreografia dei fiori, dei chilometri di seda per i fianchi. Mamma mia. Per loro erano le carrozze di lusso? Era tutte che barche, si chiamava barche da parada, insomma, sì. Roba di uso, ma tanto uso forte. Poi che metteva i delfi, divinità e statue, cioè, era roba... Roba di lusso. Roba di lusso. Oh. Allora, per sta gente, per vedere sto corteo fiabesco, sai quante che ne era, una massarsi di gente si è buttato lungo e d'olive, non pensi cosa che c'era del popolo. Però, se è successo, peso ancora, chi se andai per fin sul il ponte. Ehi. Per guardare come che si fa anche adesso, come sia. Uh-huh. Però il ponte, dal peso, non gli è. E comincia ad ondoar. È scricola e croa un'altra volta, mamma mia. Tutti in acqua. Oh sì. Chi che sta buon nuarga, ma chi che non era buon come me, se l'avrà negato, io l'avrà salvato, lo so. Mamma mia. Ecco che torniamo per cose che non erano impiantate superfitte. Ed era un ponte, sì, ma no, insomma. Un po' traballante. Sì, va bene. Allora, va, insomma, boom, tutti in barca. E ora io rifà un'altra volta. E spende 2.323 ducati. E appunto se ne rifà un altro, sempre degno, più largo, però è zero fiancheggiata dove botteghe per parte, dopo vi spiego. È zero allevatoio nel mezzo, perché prima c'era do rampe e basta. Stavolta io ho fatto allevatoio in mezzo per essere libero il passaggio a imbarcazione di alta alberatura. Pensi, ti ho detto, cosa che adesso sta quel tempo è? Hanno fatto cose grandiose quei tempi là. Essendo degno. Sì. Allora, sta attenta, sulle rampe principali di sto ponte, no? All'interno, io dico, ho fatto 12 botteghe per parte. E queste botteghe, appunto, vedevano orefici, stoffe, roba da mangiare e tutto. Dentro sto ponte, io ho fatto con 12 botteghe. Sia, no, 24, sia per parte. Adesso che ti ha presente, Antonio il Ponte Rialto. Sì, naturalmente. Ecco, che ti fa scainare rampa in mezzo, non che sei botteghe. Certo. Ecco, degno e ghizera. Non che c'era essere grande, non che c'era essere cinesca, che sarà stato portare scuro. Sì, scuri. Bartoè scuro, insomma, una roba diremmo medievale. Sì. Va bene che nel 1400 siamo già avanti. Però il senso del mercante che c'era tutto. Però i che sa, il ponte levatoio, apribile in mezzo, passava e dice che fosse passato anche al Bucintoro. Che ora l'albero non aveva il Bucintoro, no. I galeri, i velieri che passava, gli aveva se capisse degli alberi. Alberi maestri molto alti. Gli sbassava, gli metteva, diciamo, io drissava. Sì, oltre che passare dritto, anche io piegava. Io sì, di modo che passava meglio, sì, certo. Comunque, modo, sempre grande ammirazione per la tecnica che aveva. Sì, Beizera, grandi. Allora passa ancora anni e per continua usura viene restaurata con aria buona e messo a prova anche ad un forte incendio. Mamma mia. È il nuovo ponte. Anche incendio? C'era tutto degno, sai. Si fa presto case, incendiare. C'era tutto degno, sì, quanti incendi, perché c'era anche le botteghe che stava al lume di candela, bastava appena una faiuita, si faceva presto. Che dopo fosse successo come adesso, che venne una vora o un vento che un vento che succhia, si è anche incendiato tante volte, che al passo Ducale si è incendiato. Questo discorso è ciolli. Insomma, sto incendio brusto è tutto quello che trova, compreso le botteghe, i magazzini e un certo numero di case, quelli dintorni. Perciò tutti si impegnano a mettere in salvo le sue mercanzie, come si fa di solito. Beh, certo. però che se una curiosità l'aggiunto arriva anche dei forestieri sì. Però paro barco. Ah, che bello. Un aiuto molto proficuo. Sì. Però poi scrive questo il cronista Marin Sanudo nei suoi diari. Un altro anno che capita nel 1524. Forse legno in debuio ancora, consuma dall'usura. Anche dall'acqua. Diventa pericoloso. E adesso cosa facciamo? Il governo della Repubblica torna a decisione di rifarlo. Ma stavolta de Piera. De marmo fin. Una vera realtà pararia, gli dice, però non si sa. Passa tempo prima che toga questa decisione. Addirittura se passa 10 anni. Insomma. Prima che si decida. Sì. Perché che c'era tanto tempo, a un certo punto qui si ha deciso, i disegna. Insomma, si decide di fare un concorso dove gli architetti dei mezzo nomi si fa avanti e come già detto i progetti non va bene. Il Senato non si combatta e soprattutto come al solito col giudizio popolare visto tra i sì e i no come che ho fatto mi col ponte di Calatrava. Mi sarebbe mente proprio assonanza. Allora, cosa è che succede? Che intanto io va avanti, comincia a mettersi d'accordo, niente. Allora, i partecipanti del tempo, i più famosi, Iseda Michelangelo Buonarroti, Andrea Palladio, dica niente. Che si conserva ancora, dice, un progetto che sia, non so, non io trova. Che se conserva, ah no, quello di Buonarroti si conserva ancora, con un progetto a 5 arcae. Avevi presente il ponte, quello che è a Firenze? Sì, il ponte vecchio. A 5 arcae, un ponte così, dove si andava i poveri barche, non so, perciò c'è sta boccia su. Dopo che c'era un altro architetto Vignore, a Sansovino, Scamossi, ma a batte questi grandi architetti, la preferenza casca su Antonio da Ponte. Io sto Antonio da Ponte, allora era un uomo stimato per le cariche che l'occupava il servizio della Repubblica, semplice architetto ma tanto competente in materia, ecco qua, in quanto ingegnere idraulico. Però. Infatti ha avuto dei riguardi per la staticità, rinforzando e fondazione con una selva di 12.000 pali di rovere. Ecco qua chi comincia a fare e poi affitte. Tutte se per parte che ne sei, le rovere. L'impresa cuscita per forma. E tra il 1588 e 91, sotto il governo del doge Pasquale Cicogna, è legno che cedua il posto a Piera d'Istria. Solidamente impiantata su Paiafite. E allora si cominciava a parlare, ecco, già un'altra, ecco, lingua. Cosa è che succede? Che se verse un cantiere che non finisce mai, no, non finisce mai nel senso ciò che ha toccato butta su delle case. Sono andati avanti tanto. Gai pagai i proprietari che ha l'esproprio. E sì che ha toccato butta le sose. E se andai avanti un bel tocco a spaccafora tutto, sia da una parte e sia anche dall'altra. Beh, non era un'impresa tanto. Eh no, perché ti vedi, quando che Venezia è già fatta, è come adesso il discorso di Calatrava. Cosa si deve fare col po' di ponte che non serve a niente, che tocca dargli un sacco di scai Calatrava a Venezia, che meglio che scappa via stavolta. Poco praticabile, mi pare. No, non so. È il fatto di praticabile, intanto non già era necessario. E come mai hanno fatto? Io che ho fatto perché, mi pare che fosse sta, no, è Benetton, non so che società, non mi ricordo il nome, che doveva fare vicino al ponte dei centri dei botteghe e delle robe che serviva per passaggio da Piazza Roma a stazione senza fare tutto il giro. Invece questa impresa non ha funzionato perché quel posto che io manco così se quel che dice i giornali, perché sì, non mi invento, dico quello che sento, perché dice che dove chi doveva fare sto centro, sti lavori qua, era proprietà privata e i privati probabilmente non avevano d'accordo. Solo che ori sto ponte qua da una riva a quest'altra, e ori ha fatto sì, diremo, è basi, ma non con palafitte. Io gli ho fatto cemento armato, io ho fatto di tutto, però su due rive che noi la sostegno. In più, essendo in curva il canale, e anche sotto che c'è gorgo de corrente. Però. E qui a Rosega. Quindi secondo me è proprio poco sicuro quel ponte. Ciò, da quello che dice in notizie, no. No. In più... Dimmi. Sì, no, sempre sotto sorveglianza, ma è par sotto monitoraggio. Sì, ora ti vedi sotto monitoraggio, che voschei. In più sotto il coso colore amaranto e coste di sto ponte, che è di acciaio, col salso. Si arrugginiscono? Sì, ha capito. Certo. Perché abbiamo già avuto a Venezia due ponti di ferro. Chi si sta cavai via, appunto, per essere sedine, che certo. Rosega Ferro si stacca. E in più bassi, senza arco, che con l'avvento di vaporetti mi passava più. E sti ponti era quello dell'Accademia e quello della stazione ferroviaria. Cioè, ma tutte queste robe, se sapeva, dovrei dire il buon senso popolare, se sapeva già la prima. Non lo so, perché che a dita che ha fatto sti ponti di ferro è già da Nerville. Però, sì, una ditta francese. Qualche volta sì. Si usava chi ponti ha e... Però, e in più, sul ponte di Calatrava, che mi ho godito ancora, l'architetto progettista, quello che ha fatto costruire il ponte della Libertà, che mi pare che sia un ponte, che si sta inaugurando nel 33. Esatto. Lui aveva già fatto un progetto del ponte in legno, pensa poco su quel posto ha. Aveva già fatto, ho capito. Sì, poteva farlo un altro ponte, perché erano già i vaporetti che a volte, ti hai capito? Ecco, e invece si sta bocciando. Scusa, una volta non c'era i vaporetti come... Coi gondole. Ah, tutte gondole. Coi gondole. Per forza c'erano quelle dei signori. Sì, no, poi dopo i gaboli, dopo i cominciamenti di battaglia a vapore, perché sì. Chi che stava su isola è come me. Per andare di qua e di là del mio, mi stavo su isola del canale di Giudecca. Cioè, mi toccava andare di là, e ora io ho cominciato a fare i primi vaporetti. Okay. E ora con i primi vaporetti, dove era di ponte, il vaporetto mi passava. Allora, il vaporetto, verso che epoca hanno cominciato a farlo? Anche quello sul 2008. Insomma, non è proprio tantissimo. Perché l'avvento del vaporetto si sta tanto, tanto discusso anche quello. Perché comandava a carbone, faceva fumo, i gondolieri non vi accomodava neanche qualche volta, aveva fatto un sciopero potente che a volte nel 1888. Dopo che c'era un vaporetto, non so che giro che faceva, che andava ancora con quei rode come quel Mississippi. Pensa un po', pittoresco. Quanto strana che sia storia. Sì, veramente, guarda, perché io pensavo che ci fosse sempre stato il vaporetto, invece no. No, che c'era il traghetto su barche. Traghetto su barche e queste gondole? Sì. C'ho il canale grande che aveva tutto traghetti de gondole, chiamiamo le gondole, non quelle da passeggio. Direi. No, quelle da casata. No, più non raffinate. Ecco. Sì. Quelle di casata dopo nel 500 gli era fatta eliminare perché c'era troppo spreco, troppo sfarso. E quelle di casata sono quelle di lusso in sostanza. Quelle di lusso, ho capito. Zera, il proprietario era ricco, sì, nobile. Sì, com'è. Ecco, gli aveva sempre pronte, gli aveva da fare qualche manifestazione con delle regate, con ospiti importanti come principessa qua di Ferrara e ora che era il corteo. Beh, fermiamoci un attimo, sì, Franca, un attimo solo. Allora, la terza canzone in programma è cantata da Gianna Nannini ed è intitolata Io. Solo se lo fai con me, allora grida come un bacio, come la pioggia. Il sentimento spegnerà la nostra rabbia, solo una goccia sopra il viso, poi ancora. Eccoci di nuovo in studio con la nostra Franca. Ora siamo qua. Ecco. Ascolta che mi va un piccolo particolare. Sì. Prima, quando che ho parlato del ponte con i parichi, con partite, con l'apertura, diremmo, in mezzo. Sì. Ecco. Io che pensé che la Serenissima Repubblica aveva dei severe ordinanze, dei severe leggi che non trasgrediva nessuno, perché doveva sempre da esempio qualche dunque. Era il prossimo, sapeva come regolarsi. Sì. Qui, cioè, qua, qui aperture, il ponte elevatoio, diremo quei due cose, e si chiamava qui aperture a Gavarate. Gavarate. Gavarate. Ed era appunto probabilmente queste aperture che a quel tempo che serviva il ponte elevatoio, perché se vasiva e se serava, no? Ecco. E ora che c'è una regola, una legge del 1173, che era assolutamente vietà da ad arma, de, cioè de manopolizzare il vin, che purtroppo succedeva spesso. E veniva chiamato vin da consa, questo vin. Ma lo trattavano? Io trattava perché forse gli metteva qualcosa per vendergliene di più. Di più, trattava, io sofisticavo in una pratica, sofisticazione. No? Allora, ossia, gli diceva fatturà. Vin consa o fatturato. Sì, beh, c'è anche adesso. Sì. Sì, sì. Riscontrai, quando chi riscontrava questo lavoro, sto vince da senza gusto, senza niente, e così, cosa c'è che faceva la Serenissima? Io facevo buttarlo dal ponte. Ah, bene. Ecco, così acqua per acqua. Acqua per acqua. Acqua e vin. Così... No, guarda, mi ricordo una curiosità che ho detto tanto tempo fa. Adesso che sei il signore che si fa tutte le protesi al seno, no? Cosa si mette, no? Sì, già anche a volte a Venezia si usava il seno posticcio, diremmo, però no di silicone. No. Ed era in bottiglia, non so, era dei squeti in bottiglia, adesso non so. Ben, quando chi si è accorto che era sto commercio, io che ho fatto ritirare tutto. Ho fatto un bel farò in piazza San Marco che si è bruciato tutte le squeti. Ecco. Sì, sì. Ma perché? Sistemi convincenti. Perché c'era robe che non doveva, era degradante probabilmente. Contro la morale della Serenissima. Era contro la morale, ha capito. Ho capito, ho capito. E c'era robe che doveva stare tanto attenti. In più, erano avanti. Ah sì, avevano le loro leggi anche loro? Guai... aveva. Draconiane. Era terribile. Guai così, guai con la... E beh, insomma, ti vedi che però era dura a mia... La cosa funzionava, in effetti. Funzionava, che era collaborazione, che abbiamo già parlato l'altra volta, di questa collaborazione che c'era con il popolo e cariche, diremo. Beh, allora torniamo a sto cantiere che si era aperto. Raga, c'era di tutto. Che c'è di rovinarsi le case che ha buttato giù tra Egno e Piere da portar via, che c'era carichi e scarpe de, carichi e scarichi di barche, che insomma che c'era un movimento proprio del cinematografo da Liduini. E che c'era Fegna, fravi, i fabbri diremo. Ah, sì. Fravi, sì. Uomini di fatica, facchini, che scaricava i pai de olmo, de overe, de rovere, perché ci aveva subito fatto venire dai sobboschi che aveva. Tipo il Cansiglio, come il Cansiglio, anche da Coso, dall'Istria, che aveva, insomma, va bene. E in più mattoni fabbricai a Padova, perché a Padova che c'era delle fornaci particolari che faceva ben la pietra con mattoni. Sì, sì. Ecco. E sempre da Padova arrivava buona malta e calcina. Insomma, Padova era un... E beh, cioè, aveva i fornaci, io rigrattava le montagne, Monselice, tutta che roba là. Lì avevano delle pietre buone, della malta. Sì, immaginava, poi aveva stampo, era come malta e calcina da tenere su, ma come pietre, mattoni e i zeravaidi. Certo. Ecco. E cosa è successo? Ora che arriva sta roba, in più, oltre che tutti questi 12 miei pai, si è panaparte... 12.000 palli di legno. Mamma mia! Di olmo e una piattaforma a tavolato dell'Arese, sempre il solito discorso che sono i pai che mette al tavolato di Larice, degno dell'Arice, una tecnica sopraffina, cioè, tutte le case. Dunque, allora consiste tutto questo discorso qua, che in suso ancora l'unica arcata bianca di oltre 28 metri di use, 28 metri di luce, 28 di luce, sì, 7 e mezzo di altezza. Queste 24 botteghe e mezzo mercanzie che si possa trovare ancora adesso, unendo finalmente ed olive della città, che a volte, appunto, che anche a me parlava in latino, veniva detto de sitra e de ultra canale. De sitra, de sinistra e de destra? No, de qua e de là. Ah, de sitra e de ultra canale. De sitra de qua e oltre de là. Però è bello vedere queste botteghette sulle... ma adesso non ti vedi più che la mercanzia di prima, adesso tu le maschere, parte... mascherette, papolette, vero? Sì, vabbè. Sì, logicamente. Ecco, allora torniamo di sera, di qua, appunto, idea dell'acqua, come ancora i vecchi veneziani ricorda il ponte del Rialto come simbolo di unione, di unicità, della città più bea. Quindi l'anima è modestia mia. Quindi è un dato di fatto. Il ponte di Rialto è proprio un tratto d'unione di Venezia, proprio sì, tutta, sì, e l'unisce parti, tutte, no. Sì, sì. No, l'unisce i tre sestieri di là e i tre sestieri di qua, no. E ora non mi smentico però di dirvi che tanta bessa si è stata costruita niente manco che in 3 anni. In 3 anni? In 3 anni. Beh, non sono mica 3 anni, 10 per decidersi. Ah, ma anni che ha fatto niente, e diceva sì, no, no, sì, tanto ci stai con rose gotto di legno. Sì, sì, sì. Però quando chi ha deciso da mettere mano i lavori, 3 anni che ha proprio di mesa. 3 anni per decidere. Per fare il lavoro. Per fare il ponte. E 10 per decidere, per all'anima. Decide. Sì, ti dico all'anima, no? Cioè, ho detto mia l'anima sì. Di José. Allora, Dio, tanta mesa è stata costruita a costo complessivo. 250.000 ducati, 10 volte per la spesa del precedente ponte di legno. Ah, 10 volte? De più. De più di legno. Che però chiaramente si giustificava. Perché anche il legno costava, no? Certo. E mi qua, Gofinio. Sul ponte, da Gofinio, su sto ponte di Rialto, diremo, che se da una parte o dall'altra, diremo, dell'arcata, che se raffigurà. Sua destra l'Arcangelo Gabriele, sua sinistra è la Madonna e in centro la colomba che rappresenta l'Annunciazione. La colomba della pace. La colomba del Spirito Santo. Sì, sì, sì. Ecco, sì. E sta a indicare anche la nascita di Venezia perché è nata il giorno dell'Annunciazione di Maria. Oggi, stasera 21 aprile, c'è un'altra nascita, è l'anniversario di un'altra nascita, nascita di Roma. Anche qui a Roma, sì. È una storia anche qui. Sì, ecco. Romolo e Remo è una leggenda. Ma penso mai, ori si è fatto con svolo di Osei, invece qua però per spirito, se è sempre Osei in mezzo. Ecco, sì, ascolta, tu dopo parli ancora, dovevi finire un altro discorso. Mi volevo, se mi interessava, spiegarvi sto fontego, se fermo ora. Di cosa? Sì, possiamo dare. No, del fontego, cosa che è la vita di sto fontego. Ma allora prima ci ascoltiamo la canzone? Ci ascoltiamo la canzone, ecco. Perché è interessante. Ok, a dopo. Sì, a dopo. Allora, la quarta canzone in programma è cantata da Gianni Pettenati. Caldo, caldo. Questo caldo, caldo, caldo ha bruciato il nostro amore. Era caldo, caldo, caldo e appassito come un fiore. Lasciata andare sola, non dovevo farlo mai, e rimango qui al tramonto a guardare dove sei. Tanto caldo, caldo, caldo è un amore che non muore. Dire t'amo, t'amo, t'amo non guarisce il mio dolore. Senso la mia vita, la mia estate è già finita, sei volata un altro amor ed il vento non sa che da me correrà, quando stanca sarà di non saper più dove va. Eccoci Franca in studio. Che c'è tempo? Sì, abbiamo un 5 minuti circa. Stai attenta, 1612. È serenissimo principe, eso come chi scriveva una volta, fa sapere che nessun gabbia e deva insultar né in parole né de fatto offendere i turchi negozianti dentro sta città. In pene se i sarà omini de gaera per 15 mesi. E se sarà fioi de esse frustai, gaera bando, oschei o altri castighi, mamma secondo mia. Il giudizio della giustizia. Mamma mia! Tanto perché i era severi e rispettava la gente che ospitava. Dunque, fin dal 2003 a città di Doggi attirava numerosa gente de profession mercadante. Dai altre città italiane, adesso è in furia, anche se dai paesi di oltre Alpi, determinando così la formazione di albergherie e fonte da ospitare sti forastieri, con piena facoltà abitativa, adibirli a deposito del materiale, di autogovernarsi secondo e usanze del paese da dove chi veniva. Estremamente interessante, ti prova a fare un paragone con la condizione attuale. Ecco, ti vedi, non si sa bene quello che abbia detto, no? Infatti. Se menziona a Venezia mercanti armeni, toscani, da Firenze, i lucchesi, i ghezzeri modenesi, i ghezzeri lombardi, milanesi, veronesi, tedeschi a rotta de coro, e anche se proprio i posti di chi andava, no? Sì. E aveva praticamente sta ghezzera nel 1068 è stata istituita una magistratura speciale formata da tre tre Patrici e poi si diventai quattro, insomma, che l'aveva bisogno di schei. E c'era Vis Domini al Fontego dei Todeschi. Come fa conto, come guardiani, sì, tutori o qualcosa, sì, ecco, di questo osservatorio. Sì, non mi ricordo. Dunque, sì, dal Fontego di Tedeschi, che aveva i propri dipendenti, un pubblico, che era un pubblico pesador da roba, due ragionieri che teneva i conti e un custode. Vis Domini doveva tenere, ecco. E la vita del Fontego si sviluppava in maniera vivace, tanto che dopo promuovere diversi decreti murai, perché io li attaccavo tutto sul muro, gli obblighi e i decreti murai. Eh sì, perché allora non c'era mezzo di informazione. Contro i strepiti, cioè li doveva fare bordeo, sì, contese, sfodrare armi o cortei, pallarmare con la bocca, ingiurie e sogar qualsiasi gioco che potesse tornare a pace. Si capisce perché c'è stata per così lungo, ecco, tempo una pace straordinaria. Bravo. Nel 1570 che si sta consegnando una sede a questi turchi, a tedeschi, più comoda su un altro posto, insomma, più avanti, anche per i bagni rituali di maomettani. Anche addirittura gli agrada più comoda per chi aveva da fare i bagni turchi. I bagni turchi, sì. Ecco, ti ha capito? I bagni dei rituali maomettani, su una località, insomma, ma la soppressione dell'osteria dal numero di unità, pur se consistente di questa in esercizio di alto, ha fatto venire il dubbio che potesse dar danno al Dacio sul Vin. E ora anche qua in senza tenere conto che i nuovi inquilini, che sarebbero stati i turchi, che era proibito dalla regione di bere vino. Esatto, oh, quindi inutile e dilettevole. Allora, per evitare questa situazione che si potesse aggravare, dato che quel posto già era popolato da tanti veneziani, il governo si intervenuò con misure severissime, con quelle che ho detto prima. Mamma mia, ma che misure severe? Nel frattempo, dove scansare nuove sorprese, si adotta nei confronti della sicurezza misure ancora più severe. Si provvede di isolare l'edificio, de far demolire a torre del palazzo e assal su una muretta di cinta, perciò gli ha messo in prigione. Mamma mia, mamma mia, ma proprio se vieta deportare, se vieta deportare dentro polvere da sparo. Beh, armi di qualsiasi genere, se proibisce l'entrata ai giovani sbarbai, dame de altre persone di cattiva qualità. Si prescrive che sia presentata una lista giornaliera di tutti i turchi, con minaccia di pene severissime a tutti quei che sta di casa in un altro sito. Viene stabilito in conclusione che nel Fontego che sia permanenza un guardian cristiano con l'incarico di verse e porte a levar del sole e serale con sinsacamonte. Finio. Ecco, una cosa importante mi pare di ricordare. All'interno del Fontego dei Turchi era presente una moschea e anche questo di quelli tedeschi. No, ti caro John, quelli turchi. Quelli turchi, una moschea. Sì. E ti prova a pensare le diatribe di tutti gli ultimi decenni e cose del genere in confronto a una cosa di questo tipo. Guarda Antonio, adesso quelli turchi, no, che aveva fatto, che c'era adesso l'acqua si cresceva, che era una scainata, che c'era un porticato, che c'era favoloso, ora che c'era i turchi. Sì. Faceva anche i bagni. La mamma, diciamo, ecco, tutto quanto. Cioè, la mamma di tutta la nostra storia che poi è venuta. Sì, ma dico, sì. Ma ti vedi come chi dice sempre stai accolti? Esattamente. Ecco, secondo le loro attitudini, eccetera, pur nel rispetto delle leggi. E la legge, la dura legge del tempo ci impone di salutare. Franca, grazie di tutto. Scusa se devo tirare la roba. No, è stata sempre piacevolissima. Ciao Franca, grazie di tutto. Alla prossima. Volta, prossima. Grazie. Buona settimana nuova. Grazie. Ciao, ciao. E ai nostri ascoltatori e un saluto come sempre, vero Antonio? Alla prossima. Ecco, e io vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.